viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a questa puntata di Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Una puntata con un tema forte che ci ha affascinato e che vi coinvolgerà anche come ascoltatori e ascoltatrici. Però inizi tu. Sì, con un tema un po' più leggero. Vado a rispondere alla domanda dei nostri ascoltatori sull'arcobaleno. Bene, i titoli allora. Ci sono arrivate numerose segnalazioni. Il 12 maggio è stato avvistato un arcobaleno triplo, uno circolare e uno multiplo. Com'è possibile? In questa puntata Mebius vi pone e vi propone una domanda difficile. Il cancro. È forse sbagliato considerarlo il killer numero uno? Seguiteci e vedrete che c'è una risposta carica di senso. Negli anni del grande slancio risorgimentale italiano, tanti matematici ebbero un ruolo importante. Presero il fucile, ma iniziarono anche a proporre sistemi di contabilità moderna. Ve lo abbiamo detto nei titoli, ci sono arrivate numerose segnalazioni. Dunque, il 12 maggio è stata una giornata particolare, soprattutto in mattinata. In redazione addirittura ci hanno chiamato alcuni ascoltatori, alcuni ci hanno inviato delle foto. Hanno avuto qualche problema con l'arcobaleno. Sentiamo Federico. Ciao a tutti. La settimana scorsa ho fotografato un arcobaleno particolare. Oltre all'arcobaleno secondario, vedevo l'arcobaleno primario sdoppiato con una doppia sequenza di colori. Avete una spiegazione per questo arcobaleno triplo? Certo che sì, caro Federico, lo abbiamo. Allora ci colleghiamo con Elisabetta Baldanzi. Intanto buonasera Elisabetta. Buonasera, buonasera a voi. Dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR ad Arcetri a Firenze. E insomma, io ti lascerei la parola, ma forse dimmi tu Elisabetta se sbaglio. Facciamo una breve introduzione prima su che cos'è l'arcobaleno, cioè il fenomeno diciamo regolare. Poi andiamo a parlare di tutte le sue varianti. Perfetto, ottimo. Allora, l'arcobaleno è un fenomeno ottico che si ottiene tutte le volte che la luce del sole incontra delle piccole particelle di acqua sospese nell'atmosfera e praticamente queste particelle possono essere nell'atmosfera per vari motivi, per motivi meteorologici, quindi a seguito di un temporale, oppure perché vicino c'è una cascata che quindi crea questo vapore acqueo e queste piccole particelle, oppure più semplicemente una fontana. Visivamente l'effetto è quello che siamo abituati a vedere, cioè un arco fatto da varie strisce di colore e il fenomeno fisico che è alla base dell'arcobaleno è quello della dispersione della luce. Lo vediamo sempre opposto al sole, giusto? Giusto, esattamente. Per vedere l'arcobaleno occorre che il sole sia alle spalle dell'osservatore e nemmeno troppo alto in cielo, perché se supera un angolo che è indicativamente quello di 42 gradi, praticamente l'arcobaleno si verrebbe a creare sotto l'orizzonte, quindi noi sulla Terra non riusciremmo a vedere. Ecco, e poi adesso è difficile da spiegare il perché abbia proprio questa forma d'arco, nel senso che chiunque può vederlo magari su internet, ci sono proprio degli schemi che fanno vedere come la dispersione appunto produce questa sezione fenomeno di arco. Ma infatti è dovuta proprio, se uno ne capisce il principio con cui si forma l'arcobaleno, allora poi capisce anche effettivamente la forma che esso assume. Infatti la luce bianca del sole entra praticamente all'interno di queste piccole particelle d'acqua e si forma appunto quel fenomeno che spesso più frequentemente si vede quando un fascio di luce bianca per esempio attraversa un prisma di cristallo, cioè il fascio si apre come un ventaglio suddiviso in tante fasce di colore, poi queste fasce di colore rimbalzano, vengono riflesse all'interno della goccia d'acqua per poi riuscire rifratte nuovamente nell'atmosfera. Ecco, questo gioco di rifrazione e riflessione praticamente avviene su tutte le gocce che sono presenti nell'atmosfera, ma noi vediamo solo quelle che raggiungono il nostro occhio. Per questo la forma dell'arcobaleno è fatta ad arco, praticamente a uno spessore di circa di 2 gradi. Ecco, ultima cosa sull'arcobaleno tradizionale, i colori che vediamo sono 7, i 7 colori dell'iride. Allora, sono i 7 colori, come ha detto Newton, perché diciamo che fino a Newton indicativamente dicevano che erano 6 i colori dell'arcobaleno, lui perché siccome 7 ha tutta una serie di valori e significati cominciò a parlare anche dell'indaco e quindi appunto ha introdotto il fatto che fossero 7 i colori dell'arcobaleno. Se volessimo essere dei puristi possiamo dire anche che sono molto più di 7, perché in realtà non c'è una divisione netta tra un colore e l'altro. Ci sono tutte delle sfumature chiaramente tra un colore e l'altro. Per cui ne potremmo vedere anche molti di più di colori. Però diciamo che schematicamente, volendo dare una definizione, possiamo da Newton in poi dire che sono 7. Orbene, adesso andiamo alla risposta di Federico, anzi alla domanda di Federico alla quale stiamo per dare una risposta. L'arcobaleno secondario, l'arcobaleno triplo, come li spieghiamo? Partiamo dal secondario, diciamo uno alla volta. Allora, il secondario si forma per lo stesso principio con cui si forma il primario, solamente che la riflessione della luce all'interno della goccia d'acqua non avviene una volta sola, ma avviene due volte, per cui subisce una doppia riflessione la luce e quindi noi lo vediamo con un angolo un pochino superiore rispetto al primario di circa 53 gradi, quindi lo vediamo sopra il primario e i colori in questo caso sono invertiti rispetto al primario, perché mentre nel primario vanno dal rosso esterno fino al viola interno, nel secondario è il contrario, sono l'interno quello rosso e l'esterno il viola, perché proprio in questa doppia riflessione, come avviene negli specchi, praticamente i colori vengano invertiti. Quindi questo, diciamo, è per spiegare il secondario. In linea di principio potremmo vederne anche un terzo e un quarto, ma questo nella realtà non è quasi mai avvenuto. Il terzo, che appunto diceva Federico l'ascoltatore, probabilmente non è il terzo ordine, diciamo, dell'arcobaleno, ma l'arcobaleno, quello che è cosiddetto soprannumerario. Praticamente appunto al di sotto dell'arcobaleno ci si possono formare delle frange colorate. Queste frange però colorate non sono dovute alla dispersione della luce, come accade invece nel primario, ma l'interferenza della luce. Provo a spiegare un po', perché Federico ci ha mandato anche una foto. Praticamente si vede l'arco dell'arcobaleno tradizionale, sotto al quale vengono ripetuti alcuni colori, ecco, possiamo dire così. Una sorta di arcobaleno più grosso, multiplo, ecco. Esattamente, proprio così. L'effetto, diciamo, dell'arcobaleno soprannumerario è proprio questo. Si formano queste righe di colore al di sotto dell'arcobaleno primario e sono dovute all'interferenza della luce, cioè ci sono all'interno della goccia d'acqua presente in sospensione nell'atmosfera degli altri, praticamente dei raggi che fanno un percorso leggermente diverso. Gli effetti di questi raggi si possono o sommare, quindi creare delle righe di colore ben evidenti, oppure sottrarre e quindi fare delle bande più scure. I risultati dell'interferenza della luce si possono vedere frequentemente, il fatto che formi queste fasce, queste righe di colore, tipo sulle bolle di sapone si vede a volte che ci sono un po' dei riflessi, sì. Esattamente, oppure sui CD, muovendo un CD si formano anche lì dei riflessi, delle righe colorate. Ora, in conclusione invece, ci chiamò quel giorno Vanni, un altro ascoltatore, in redazione, e ci disse: andate fuori a vedere il sole perché ha un arcobaleno circolare che lo circonda. Ora, io ci sono andato, ho fatto una foto, la metterò anche sul sito. In effetti c'era un arcobaleno intorno al sole circolare, però forse non era proprio un arcobaleno. Esattamente, diciamo, è un po' un uso, diciamo, improprio del termine arcobaleno, nel senso che in questo caso è più un alone, nel senso che è un alone spesso bianco che ha degli effetti colorati sul bordo, però non si può parlare di arcobaleno perché, appunto, come dicevamo prima, l'arcobaleno vero e proprio, quindi l'arco con tutte quelle strisce di colore, si forma quando il sole è alle spalle dell'osservatore. Perfetto. Elisabetta, invece della pentola d'oro in fondo all'arcobaleno, l'Istituto di Ottica non ci sa dire nulla. Quello è più difficile, ma stiamo lavorando per questo. Benissimo. Anche. Va bene, grazie mille. Mai perdere la speranza. Allora, speriamo che i nostri ascoltatori siano rimasti soddisfatti. Pubblicheremo tutte le foto su moebiusonline.eu. Grazie Elisabetta, benissimo, ci risentiamo presto. A presto. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È uscito un saggio, un libro. Capita spesso qui a Moebius che io o Chiara si inizi così a parlare di un testo di scienza. Capita anche in alcuni casi di dire questo, e cioè questo saggio tuttavia ha un tema non facile da trattare. Vediamo se ce la facciamo. Il saggio di cui vi parlo questa sera è invece un caso unico. È difficile? Sì, ma non perché ci propone temi complessi da capire. Il saggio infatti è chiarissimo. È difficile perché riguarda tutti noi, perché ci coinvolge in profondità. Il suo titolo: di che cosa parliamo quando parliamo di cancro? Vi dico subito che attendiamo i vostri commenti scrivendoci a mebius@radio24.it oppure andando sul blog di Mebius. Andate alla pagina della trasmissione partendo dalla pagina di Radio 24 e lì trovate l'indicazione per il nostro blog. Ma di questa vostra partecipazione vi dico alla fine. Comunque torniamo all'argomento fra un paio di puntate, senza dubbio. Vi presento gli ospiti, i due autori, Pino Donghi e Gianfranco Peluso. Buonasera Donghi. Buonasera a voi, grazie per la ospitalità. E buonasera Peluso. Buonasera. Allora, Peluso è direttore di ricerca del CNR, dell'Istituto Bioscienze e Biorisorse, e responsabile della unità operativa di Napoli. Pino Donghi insegna etica della ricerca biomedica alla Sapienza di Roma ed è studioso dei linguaggi da tempo. Un altro ospite abbiamo con noi, Alberto Mantovani. Buonasera Mantovani. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Direttore della ricerca all'Istituto Clinico Humanitas qui a Milano, ma io, tocca a me dirlo, lo presento anche come uno dei ricercatori italiani che si colloca ai livelli alti della ricerca internazionale biomedica. In particolare lei lavora nel settore della immunologia. Vi dicevo, il saggio ci coinvolge tutti. Seguite questa conversazione per farvi capire di quale coinvolgimento si tratti. Parto da una prima domanda a lei, Gianfranco Peluso. Nel vostro saggio voi dite è sbagliato guardare al cancro come a un killer. Ovviamente non stiamo per dire che la sua natura è benevola, ma c'è secondo voi un grave errore scientifico in quella definizione appunto di killer? È esattamente così, cioè nel senso, quando parliamo di qualcosa che uccide, logicamente dobbiamo comunque dare un concetto che sia comprensibile. Definiamo questo aspetto un aspetto volgarizzante della scienza, non nel senso che rende volgare, ma rende comune, di comune accezione, dei significati estremamente complessi. Nell'ambito della volgarizzazione di un concetto scientifico molto spesso può venire fuori un qualcosa che, pur non discostandosi dalla realtà, è profondamente differente da quella che è la reale consistenza di una determinata patologia. In altri termini, non è vero, cioè nessuno può negare che di cancro si muore, quindi si può definire logicamente un killer, però non possiamo nemmeno considerarlo a tutti gli effetti qualche cosa che sia estraneo all'organismo stesso. In altri termini, è una patologia che nasce dall'organismo, che nasce attraverso mutazioni, che provoca la morte, ma che logicamente va considerata alla stregua di tante altre patologie, molto spesso di tipo genetico, che caratterizzano delle evoluzioni negative. In passato, ribadisco sempre, di alcune malattie di questo tipo si moriva, pensiamo al diabete per dirne una. Oggi sappiamo che molte di queste patologie possono essere curate e di fatto, piuttosto che guarire di quelle malattie, siamo in grado di convivere con quelle malattie, riuscendo in qualche maniera a superare l'handicap di essere portatori di un tratto negativo. Il concetto, se lo facciamo in senso copernicano, cambiamo completamente tutto. Non è qualcosa che un killer per cui va distrutto. Capiamo un attimo se siamo in grado di convivere, di rendere cronica una patologia, di evitare di togliere un qualcosa che forse alla fine toglie anche la stessa qualità di vita, se pensiamo ad alcune operazioni estremamente destruenti, o provoca la morte stessa, laddove al di là dell'aggressività del tumore pensiamo anche agli effetti collaterali che ne possono derivare dalle terapie messe in atto. Quindi è questo il concetto che cercavamo di dare. Siamo attenti che quando parliamo di cancro parliamo anche di un qualcosa che nasce da un organismo, si sviluppa, va controllato, probabilmente potremmo anche non guarire ma riuscire a convivere con questa patologia. È un sistema che appartiene all'evoluzione del vivente. Lei prima faceva riferimento appunto al sistema copernicano, al cambiamento, no, che avviene. Se pensiamo che è una cosa che sembra del tutto evidente, il Sole che ruota intorno alla Terra, invece è esattamente l'opposto, allora sembrerebbe un semplice giochino, in realtà si apre una finestra completamente diversa. E so che la medicina oggi sta interessandosi, almeno una parte della medicina, proprio a questo concetto di evoluzione della malattia. Mantovani, cosa ne pensa di questa impostazione? Beh, è fondamentale pensare al cancro in una logica evolutiva e darwiniana. Da una parte la tendenza a mutare il nostro genoma è in effetti fondamentale per l'evoluzione della vita sul pianeta, quindi in un certo senso avere il rischio di sviluppare tumori è un po' il prezzo che paghiamo all'evoluzione. In secondo luogo all'interno dello stesso tumore si applica una logica darwiniana, cioè un tumore non è qualcosa di dato, è qualcosa che va incontro a evoluzione. Tutti abbiamo più o meno l'idea di lesioni che da maligne, da benigne diventano maligne o diventano metastatiche, quindi ancora più maligne. In realtà è un'evoluzione molto sottile che ha a che vedere con i rapporti con il microambiente, quindi per esempio con il sistema immunitario, nei confronti dei quali c'è un'evoluzione dinamica che all'inizio è basata sul controllo da parte del sistema immunitario, poi c'è una fase invece di fuga. Quindi, tornando al cuore della domanda, dobbiamo pensare al cancro in una logica evoluzionistica darwiniana. Torno a lei, Gianfranco Peruso, e le chiedo, perché lo so, ci siamo preparati per questa trasmissione, c'è un dato molto secco e molto forte ed è completamente ineludibile, che è un dato epidemiologico, cioè come vanno le cose quando andiamo a misurare la sopravvivenza di vita per questa malattia. Ce lo dica. Allora, il concetto di base, e questo in qualche maniera potrebbe far scaturire una serie di fenomenologie negative o pessimistiche, cioè sì. Di fatto, se andiamo a vedere esattamente, questi non sono dati nostri, sono i dati che vengono mondiali, in qualche maniera divulgati proprio dalle strutture mondiali di sanità, specialmente quelle americane sono molto attente a quelle che è l'impostazione che deriva terapeutica, che deriva anche da una proiezione non di un unico anno di trattamento, ma di anni e anni, in modo tale da comprendere di fatto se quel tumore in qualche maniera ci si è guariti di quel tumore o che in realtà si è solo rallentato in qualche maniera la patologia, ma di fatto rimane una patologia mortale. Quello che esce fuori è che queste proiezioni, escluse per particolari forme tumorali, nella maggior parte dei casi, anche se la chemioterapia ha fatto passi da giganti, anche se terapie specifiche sono oggi molto più all'avanguardia rispetto a quelle che erano quelle di tanti anni fa, pur tuttavia la mortalità continua ad essere estremamente elevata, tale da aver determinato in pratica, anche laddove abbiamo trovato dei farmaci enormemente più attivi, pur tuttavia abbiamo dei guadagni che in alcuni casi sono di anni, in alcuni casi praticamente, quindi in qualche maniera abbiamo ottenuto già un primo successo, pur tuttavia non sempre si porta a quello che il paziente aspetta, la guarigione dalla patologia. C'è un dato, Gianfranco Peluso, molto netto, numerico, che ci dice, se non sbaglio, come sono andate le cose dal 1991 ad oggi in termini di sopravvivenza, di vita. Sì, e questo è un dato che chiaramente la dice lunga su quello che è realmente il rapporto tra guarigione e trattamento, è 1,85, un dato che ovviamente è talmente esiguo, talmente paradossalmente rispetto ai trattamenti che si fanno molto spesso non soltanto in termini di attività farmacologica ma di spesa sanitaria eccetera, è veramente ridimensiona fortemente quelli che sono oggi i trattamenti. Cioè il miglioramento è stato solo dell'1,85. Esattamente così. I dati dimostrano sul campo che in termini di sopravvivenza di vita le strategie terapeutiche che abbiamo adottato fino ad oggi non hanno portato sostanziali mutamenti. C'è quindi bisogno, e lo vedremo subito, di un cambio nel come si fa ricerca, nel come si gestisce appunto la terapia, ma c'è anche un cambio di tipo culturale in senso lato, no, Pino Donghi? C'è un modo di parlare che noi abbiamo di questa malattia che risente, insomma, di un'impostazione che voi giudicate sballata. Sì, dovrebbe essere conseguente appunto al cambio di strategia terapeutica. L'analisi del discorso ci insegna che la terribilità è un effetto di senso e nei racconti e nei discorsi sul cancro questa terribilità emerge. Facevate riferimento prima alla figura del killer. La grandezza, in questo senso ovviamente negativa, del nemico finisce per costruire una sorta di dimensione eroica del valoroso combattente, in questo caso ovviamente la persona affetta dalla malattia, però in questa costruzione narrativa evidentemente è già iscritto un esito negativo, costruisco la grandezza del nemico così da rendere più eroica la mia resistenza, ma in quanto destinata a fallire. In una prospettiva diversa di convivenza con la malattia bisogna ripensare al discorso in maniera tale da non costruire le basi, diciamo, semantiche di questa resa. Entriamo ancora di più perché ci sono dei passaggi importanti ancora da aggiungere a partire da quello che voi ci proponete in questo saggio. Allora Peluso, lei ci ha detto, dobbiamo entrare in una dimensione di cronicizzazione, no? Come abbiamo fatto con il diabete, che era un grande killer fino ai primi anni 50. Ci sono dei casi, vediamo questo aspetto un po' tecnico-scientifico, che vediamo se riusciamo a farlo capire. Noi possiamo dire che ci sono dei casi di successo in soggetti che hanno avuto il cancro, nei quali di fatto si è avuto una cronicizzazione non voluta, insomma. Beh, in realtà, per esempio, sappiamo perfettamente che molte forme leucemiche il trattamento può essere considerato oggi risolutivo, cioè di fatto, specialmente in molti bambini che sono affetti da alcune specifiche forme leucemiche, il trattamento determina quello che viene oggi considerato una vera e propria guarigione, non ci sarà più una ricaduta nella forma tumorale. Purtuttavia però, e questo ormai sono gli studi ancora più recenti e sempre di più hanno dimostrato questa situazione, in realtà se noi andiamo a fare una valutazione molto più fine, per esempio sulle cellule del midollo osseo di questi soggetti, scopriamo ad esempio che in realtà ci sono piccoli nidi cellulari ancora neoplastici, ancora tumorali, al punto tale da considerarla un minimal disease, cioè una malattia minima. Guarigione? Probabilmente no. Minimal disease, cioè una malattia ormai tollerata, ormai contrassegnata da una forte mancanza di progressione? Sicuramente questo possiamo dirlo, sì. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Di che cosa parliamo quando parliamo di cancro? È il titolo di un saggio che stiamo analizzando con i due autori, Gianfranco Peluso, direttore di ricerca dell'Istituto di Bioscienze del CNR e Biorisorse, con Pino Donghi, che è uno studioso dei linguaggi e insegna etica della ricerca biomedica all'Università Sapienza, e poi con Alberto Mantovani, direttore della ricerca all'Istituto Clinico Humanitas qui a Milano. Stavamo parlando con lei, Gianfranco Peluso, lei ci introduceva questo cambiamento forte di paradigma, e cioè guardare al cancro non più come a un killer. Naturalmente non è diventato un bravo personaggio, ma insomma non dobbiamo più ucciderlo, ma dobbiamo imprigionarlo. Ecco Peluso, però su quale concetto scientifico nasce l'esigenza di un cambiamento di prospettiva così importante? Allora, il concetto dove nasce? Cioè, qual è che veramente oggi sta uscendo fuori, specialmente da quelli che sono gli ultimi congressi che la stessa società americana sta facendo venire fuori? Quando parliamo di cancro molto spesso parliamo di mutazioni geniche. Sembrerebbe una cosa assurda, cioè come dire, se io ho ereditato gli occhi neri, il trattamento me li può portare a far diventare azzurri anche se li voglio? Assolutamente no, farebbe ridere. Se una patologia quindi è determinata da una mutazione di un gene, tecnicamente parlando ben poca speranza di farla revertire, di avere la possibilità concreta in qualche maniera di debellare questa situazione. Il concetto è un altro. Sappiamo che ci sono patologie genetiche che sono mortali, come per esempio alcune forme di fenilchetonuria, che è una patologia da mancanza di enzimi che non permettono il metabolismo di specifici amminoacidi. Questi si accumulano e di fatto portano in qualche maniera il paziente ad una forma degenerativa molto importante. Purtuttavia, se io faccio un test iniziale appena nato e riesco a capire che quel bambino è affetto da questa mutazione, io evito l'apporto alimentare di questi amminoacidi. Non ho più il fenotipo malato, il genotipo c'è in ogni caso, cioè la mutazione non la posso variare, il bambino ha gli occhi azzurri, non neri, non sono in grado di far revertire un qualcosa che geneticamente mi porto dentro. Purtuttavia sono in grado di evitare che questa malattia si evidenzi, cioè porti a quello che viene definito in termini assolutamente logicamente scientifici a determinare quel fenotipo malato, pur avendo un genotipo che condizionerebbe a quel fenotipo. In altri termini, ho evitato che quella patologia porti i suoi effetti deleteri, che quella mutazione in qualche maniera estrinsechi quegli effetti deleteri. Allora il problema, partendo da questi presupposti, dovremmo un attimo comprendere, questo è un po' questa rivoluzione di cui noi prima parlavamo, di capire un attimo quali sono le condizioni che in qualche maniera condizionano in maniera darwiniana, sono assolutamente d'accordo col professor Mantovani, questo concetto di aggressività, cercando di limitarlo al massimo ed evitando quindi l'aspetto più deleterio. Un esempio classico, ne parlava giustamente prima, l'aspetto metastatico rispetto questo aspetto non metastatico che certamente condiziona l'evoluzione, negativamente l'evoluzione della malattia. No, non più un killer e quindi da uccidere, ma da imprigionare, insomma. Perfettamente, questo è il cambiamento. Da controllare. Oggi io controllo la glicemia, controllo l'ipertensione, controllo ovviamente la febbre, sappiamo tutte che sono condizioni che vanno giustamente in un termine semantico, come diceva anche il buon Pino Donghi, sono aspetti semantici importanti. Sto controllando, ma non guarisco dal diabete, non guarisco dall'ipertensione e così via. Mantovani, la sto usando come verifica delle cose che ci dicono i due autori. Ma appunto, sul piano della terapia, qui c'è un bel cambiamento e anche della ricerca. Non c'è dubbio. Da una parte, come già stato detto, non possiamo sottovalutare i successi che ci sono stati e che sono reali, sì, anche se diluiti, diciamo, nella numerosità dei pazienti con cancro, sono molto significativi. Per il paziente con leucemia che guarisce, è il 100% di guarigioni, ovviamente. Dall'altra c'è un cambiamento che sta avvenendo, che è quello di convivenza armata con la malattia. Affrontare il cancro, come è stato detto, sempre di più come una malattia cronica che ci accompagna. Questo è un cambiamento che sta avvenendo sotto i nostri occhi con l'entrata di nuove terapie, con approcci nuovi. Quest'anno Science ha dedicato, una rivista scientifica, ha dedicato l'anno alla scoperta della immunoterapia dei tumori. In realtà è solo l'ultimo passo di un percorso molto lungo. Per la prima volta sono stati approvati per uso clinico degli anticorpi che tolgono i freni al sistema immunitario. Ecco, quello del rapporto con il sistema immunitario è una delle frontiere per trasformare i tumori in patologie croniche in cui c'è un equilibrio con l'organismo o addirittura portare alla loro guarigione. Torno a lei, Pino Donghi, perché si potrebbe interpretare il vostro libro come un libro che contiene una saggia accettazione di una realtà non aggirabile, no? E insomma, nella saggezza si può trovare anche consolazione. In realtà, mi sembra di capire che c'è molta più speranza in questa direzione che voi tracciate che nell'altra. Anche a me sembra così, ed è la ragione principale per la quale abbiamo concepito la stessa possibilità di scrivere questo libro. Ovviamente ci siamo documentati, io in particolare occupandomi di linguaggio, di molti testi che parlano dell'esperienza del cancro. Normalmente sono testi scritti da persone che ne sono affette o che ahimè ne sono state affette, e complessivamente, ripeto, c'è una prevalenza di discorso che riguarda la dimensione eroica di combattimento, una forma di esagerazione quasi del willpower, della volontà di sconfiggere. Noi ci siamo messi in una prospettiva diversa e pensando alle cose che diceva Gianfranco Peluso sulla eventualità di poter arrivare a una cronicizzazione della malattia, abbiamo riflettuto molto su questo aspetto e indichiamo nel libro una serie di strategie per cominciare a parlare di questa malattia, appunto non come un killer, un mostro, uno zombie che si è impossessato del nostro organismo, ma come un ospite assai indesiderato, ma con il quale si può costruire una forma di convivenza. Adesso, ripeto, non si tratta di un gioco di parole, no, sarebbe no. Fin troppo facile proporlo. Si tratta in sostanza di passare da una dimensione per la quale ci si appoggia solo alla volontà di guarire, come se quelli che non guariscono poi appunto ne avessero meno volontà, mi sembra anche ingeneroso come giudizio, ha una dimensione nella quale si cerca, anche per il tramite di una maggiore consapevolezza e conoscenza di questa malattia, di poter convivere con questo ospite, ripeto, assai indesiderato, ma che fa parte ormai della nostra esistenza. Alberto Mantovani, però questa speranza possibile, che certo è fondamentale in qualunque male che ci colga, anche proprio tecnicamente, scientificamente, medicalmente, può essere maggiore se entriamo in questa dimensione. Qui però vorrei aggiungere e sentire la sua opinione. Però i nostri due autori dicono anche, in conclusione del loro saggio, che per questo cambiamento terapeutico ci vuole l'innesco di una ricerca che è farmacologica, che non sia solo condizionata. E qui non è che voglio fare polemiche sulle case farmaceutiche, perché il mercato e le farmaci sono dei prodotti, ha delle sue regole piuttosto forti, piuttosto toste, ma però sono quelle. Ci vuole una ricerca che non abbia questo tipo di problema. Cosa ne pensa? Io penso che un sistema di ricerca sano in campo oncologico ha bisogno di due o tre gambe, e questo al servizio dei pazienti. Ci vuole la ricerca industriale, non se ne può fare a meno, ci vuole ricerca indipendente che pone le premesse anche per cambiamenti, per il modo di visione, e poi ci vuole ricerca clinica indipendente. Mi soffermo su questi due punti che sono quelli più vicini al tema del libro. Menzionavo questo grande cambiamento, il ruolo e la speranza che riponiamo in approcci di tipo immunologico. Ebbene, le premesse per questo grande cambiamento di paradigma sono tutte in ricerca indipendente, fondamentale, non sostenuta da industrie farmaceutiche. Dopodiché l'applicazione, lo sviluppo, il farmaco che è attualmente approvato e gli altri appartengono al dominio dell'industria farmaceutica, ma le premesse sono state poste da ricerca di base indipendente. Ancora abbiamo bisogno di ricerca clinica indipendente, proprio per sviluppare idee e approcci nuovi. Prima è stato giustamente ricordato il caso di successo delle leucemie del bambino, dove siamo passati da un 100% di mortalità in pochi mesi all'80% di guarigioni, con le virgolette del caso, ma di fatto queste sono guarigioni. Ecco, quel passaggio è avvenuto grazie non a farmaci nuovi, ma a un uso più intelligente, sviluppato da ricerca clinica indipendente, dei farmaci disponibili. Quindi mi associo, diciamo, all'appello per il sostegno alla ricerca clinica e di base indipendente per sviluppare nuovi paradigmi nella lotta contro il cancro, nel passaggio dei tumori da una da quella che è stata definita terribilità a una situazione cronica. Quindi due grandi cambiamenti importanti, questo che appunto ci dice guardiamolo diversamente, e poi un cambiamento nella ricerca in una situazione in cui la ricerca privata, la ricerca di base, insomma c'è un intreccio e una capacità di dialogo e quindi di produzione di risultati molto più elevata. Io ringrazio Pino Donchi, Gianfranco Peruso e Alberto Mantovani per essere stati qui con noi. Come vi dicevo all'inizio, chiudiamo ricordandovi che vogliamo le vostre opinioni. Scriveteci a mebius@radio24.it oppure andate alla pagina di Radio 24, www.radio24.it. Cercate la trasmissione Mebius nel cerca e lì avrete subito evidente il link al nostro blog e potete contribuire con dei post. Noi abbiamo anche fatto una certa diffusione dall'ascolto di questa trasmissione presso associazioni che si interessano di questa malattia. Abbiamo bisogno assolutamente di sentire delle opinioni di base e torneremo su questo tema fra un paio di puntate. Grazie, saluto ancora i nostri ospiti, tutti. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La patria ci vuole eroi, è il titolo di un libro scritto da Umberto Bottazzini e Pietro Nastasi, entrambe storici della matematica, e qui con noi questa sera però c'è Umberto Bottazzini. Buonasera Bottazzini. Buonasera Pedronchi. Edito da Zanichelli. Allora, avete scelto questo titolo, La patria ci vuole eroi, sono loro che parlano, infatti il sottotitolo è Matematici e vita politica nell'Italia del Risorgimento. Ecco, c'è inizialmente questo fatto singolare. Noi avevamo parlato un paio d'anni fa Qui a Möbius, in occasione del 150esimo, insomma, dell'Unità d'Italia, della partecipazione in generale di scienziati al Risorgimento, qui voi mettete un focus sui matematici, cioè ce ne sono veramente tanti coinvolti anche ad alto livello nelle storie risorgimentali e anche di amministrazione dei primi pezzi d'Italia, no? Dei primi pezzi del regno. Come mai? Sì, sì, ma intanto ci sono dall'inizio del Risorgimento, diciamo, dalle, se per inizio si prendono, come di solito si fa, le campagne napoleoniche, dalle campagne napoleoniche in poi, fino alla Prima Guerra Mondiale, insomma, questo è l'arco temporale. Sì. Che abbiamo considerato. Come mai i matematici? I matematici perché di fatto sono nel corso dell'Ottocento la comunità, se vuoi, meglio organizzata, la comunità anche più numerosa, la comunità, lì ci sono diversi motivi che sarebbe interessante indagare. Insomma, tutto sommato l'Italia all'epoca era un paese fortemente arretrato e diciamo che per avere degli scienziati di primo piano in chimica piuttosto che certo, ho capito dove vuole arrivare. Certo. Ci vogliono laboratori, ci vogliono strutture, ci vogliono. L'Italia è un paese, sì, c'erano figure isolate, per carità, non c'era, non so, Macedonio Melloni per dirne una e così via, ma certamente i matematici, e poi molti di questi uomini sono di formazione, per così dire, diciamo da ingegnere, insomma, no? E quindi vengono anche impiegati proprio come tecnici al servizio del potere politico, quando non sono loro stessi uomini politici. Per dare un'idea, Sella, che tutti conoscono, è come ministro delle finanze e così via, è di formazione un matematico, è uno che dice nel 47-48, quando uno scrivendo il fratello, non si capisce lo spirito del secolo se non si conosce l'algebra. Ecco. Uno che dice una cosa del genere, come dire. E lo so, adesso mi viene facile dire, ma ecco, non è proprio un atteggiamento teorico raffinato molto presente questo. Nei nostri tempi, no? No, direi che questi paralleli tra l'algebra e la comprensione della complessità del mondo. Senta, Bottazzini, questo libro, io tra l'altro lo dico, è piuttosto denso e lungo, è un libro di quasi 400 pagine, però è anche una raccolta di aneddoti di quegli anni e di come questi giovani studenti, tanti giovani studenti universitari, prendono veramente con grande cuore questa impresa dell'Unità d'Italia dal 48, il 60, certo, c'è tutto il periodo del Risorgimento, e quindi è anche un testo di storia quotidiana di quegli anni. Ci sono veramente tanti episodi, e ci sono poi delle famiglie, una che lei tratta in particolare, milanese, è quella dei Brioschi, no? Certo, sì, ma ci sono, è vero, perché il 48 inizialmente è anche così espressione dell'entusiasmo patriottico di una serie di giovani. Citava Brioschi. Beh, Brioschi è uno di questi, è un mazziniano, è uno che partecipa al 48, ma viene da, si direbbe oggi, viene da lontano, insomma, nel senso che c'è una vera e propria stirpe di ingegneri, di cui lui è uno degli ultimi esponenti, insomma, Fabrizio, il suo, no? Suo nonno di era già nel consiglio della Cisalpina a Milano, insomma, nel consiglio municipale e così via. E certamente è una delle famiglie in vista di Milano, ma la cosa interessante è che molti degli esponenti poi politici di primo piano del Risorgimento italiano sono, come dire, si conoscono, sono amici, si frequentano, i milanesi soprattutto, vanno nelle stesse scuole, insomma, Correnti, Cornaglia, Visconti Venosta, eccetera, sono tutti, poi diventano ministri, Visconti Venosta era ministro degli esteri, Brioschi è senatore, insomma, si frequentano, c'è una specie di, come dire, naturale appartenenza alla classe dirigente che sta emergendo, insomma, e che è espressione della Milano industriosa, come si diceva allora, no? Infatti poi molti di questi matematici, ingegneri, insomma calcolatori, finiscono con responsabilità di bilancio, con responsabilità appunto nel prefigurare politiche economiche. E come no, appunto, per restare un attimo su, su Brioschi, insomma, è uno che ha responsabilità davvero di grande rilevanza, è, che ne so, il presidente della commissione senatoriale che decide la politica doganale del nostro paese e la svolta protezionistica che ha avuto un impatto decisivo sulle sorti dell'economia, è il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ferrovie, decide sulla gestione privata o pubblica della rete ferroviaria, grandissima questione su cui cadono governi, insomma, sì. Cioè sono uomini che hanno una responsabilità veramente di primo piano nella vita politica del paese. E incidentalmente, visto che volevo un aneddoto, allora tutti sanno della tassa sul macinato, no? Bacchelli ne ha fatto un'immagine, no? Nel Mulino del Po. Sì. Ecco, pochi sanno forse che tecnicamente come si faceva a calcolare le imposte e così via è frutto di una relazione tecnica che ha fatto Brioschi per il suo grande amico Sella, erano molto amici e si frequentavano, si stimavano molto, e Sella gli chiede di fare il conto, no? Vero e proprio di come si fa a calcolare l'imposta, i giri del mulino, della macina, insomma tutte queste cose. Senta, una cosa che adesso ci porta un po' lontano dall'aspetto strettamente matematico-scientifico, che però è veramente entusiasmante, sono come si formano questi gruppi di giovani ragazzi, spesso guidati da un loro docente, no? Il caso per esempio di Mossotti, quel gruppo che parte da Pisa, no? E che viene su al nord quando si comincia a sentire che ci sono, stanno partendo le cinque giornate di Milano, no? C'è questa tensione. Sì, sì. E quello che è assolutamente impressionante, voi qui avete diverse cose sparse qua e là nel testo che raccontano questi episodi, è come questi ragazzi, studenti universitari, partivano, come dire, confidando sul fatto, insomma, stavano via un mese, due mesi, che comunque la gente gli avrebbe dato da mangiare, da dormire, e in effetti continuano a trovare questo. Qui è un gruppo che parte da Pisa, sono in 400. Partono con un fucile, magari anche sgangherato, e nulla più, non ce n'è mica nessuna strutturazione di assistenza. Il titolo del libro, tra l'altro, è tratto appunto da una espressione di Mossotti, che era il comandante di questo battaglione di studenti, di volontari, anche docenti, e non solo studenti, insomma, c'erano dei ragazzi, alcuni non hanno nemmeno compiuto 18 anni. Ecco, anche questo, sono gruppi dove ci sono anche 15enni, 16 anni. Sì, certo. E veramente vengono accolti dalla popolazione, sostenuti dalla popolazione, paesi in festa quando arrivano. E c'è una lettera di uno di questi, che era un medico, alla moglie, dicendo: ma qui non si morirà di pallottole ma di indigestioni, perché tutte le fanno sempre grandi feste, grandi cose. Insomma, è l'espressione, questi ragazzi qui, insomma, sono l'espressione di un sentimento diffuso, e quindi è naturale che la popolazione li sostenga, insomma. E poi erano ragazzi, erano studenti, quindi certo, davano anche il segno di un futuro, no? Di un paese. E come no, certo, ed erano i giovani migliori, perché erano quelli che, insomma, andavano nelle scuole d'elite e così via. Allora, La patria ci vuole eroi, edito da Zanichelli, scritto da Umberto Bottazzini e Pietro Nastasi. Lei, Bottazzini, insegna storia della matematica all'Università di Milano, mentre invece Nastasi insegna all'Università di Palermo, sempre storia. Insegniamo adesso. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto. Chissà quanti blog avrebbero aperto questi ragazzi del Risorgimento, soprattutto i matematici. Se andate a leggervi il libro di Bottazzini, vedrete che lo spirito di questa gente era già prontissimo alla rete, ma è arrivato un po' troppo tardi per loro. Vi parlo di questo perché si è aperto il blog di Moebius, andate alla pagina della radio, cliccate, scrivete Moebius nel cerca e andate alla pagina trasmissione e li vedete subito come raggiungere il blog. Buona settimana settimana a tutti e a tutte.